ظلم کا زمانہ بیتے گا رے بیتے گا 有毛的实力还要取来当过心以为会捞几个眼子就在哪里 اسمعوني جيبوا شباب ومئات البنات نطلع عجنب للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megafonix, Megafonix, Megafonix, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopoliticale. E allora, buonasera a tutti e a tutte. Oggi dedico questa trasmissione alla contestazione della famiglia. Dopo aver fatto una trasmissione sulla critica alla maternità obbligatoria, all'oppressione e all'oppressione delle norme della bellezza, in particolare all'oppressione della grassezza o anche detta grassofobia, grassafobia, oggi continuo una lettura femminista e lesbica, cioè rilevante del lesbismo politico, delle strutture e meccanismi sociali che sottomettono le donne e le lesbiche a dei ruoli o atteggiamenti che distruggono la loro propria libertà, la limitano, che ne limitano le donne e le lesbiche dentro le loro azioni, la loro autodeterminazione. Questi tre famiglia, corpo, spazio sono comunque al cuore delle nostre vite, e che posso fare io o no del mio corpo o del mio tempo e a chi ne tira benefici sono io o gli altri. Questo potrebbe essere delle domande chiavi nella gestione della nostra propria vita. E si ritrova spesso nei testi e canzoni femministe l'idea di rompere le catene che ci tengono all'interno di strutture che limitano il nostro godinamento del nostro corpo, la nostra azione, il nostro utilizzo del nostro proprio tempo o anche la disposizione dei nostri spazi. Dunque parliamo oggi di una delle istituzioni che per eccellenza controlla e chiude un gran numero di donne dentro casa, parliamo della famiglia. Noi appena siamo nate, ci troviamo già sposate, la vita nostra è già decisa, la carriera è questa qua. E se poi per mala sorte il matrimonio non funziona, non abbiamo nessuna scelta, la famiglia è schiavitù. Noi appena siamo nate ci troviamo già sposate, la catena spezzeremo della nostra schiavitù. Se il marito t'ha stufato, tu non te ne puoi andare, soldi tuoi tu non ne hai, non ti han pagato mai. Per la casa e per i figli tu continui a lavorare, ma il tuo unico compenso è che forse puoi campare. Noi appena siamo nate, ci troviamo già sposate, la catena spezzeremo abbandona. Due lavori dovrai fare, uno gratis per lo Stato, il secondo sottopagato. Il divorzio è civiltà, ma le donne andano a lottare per poterlo conquistare, per potersene servire. Noi appena siamo nate ci troviamo già sposate, la catena spezzeremo della nostra schiavitù. Per il salario noi lottiamo, per il salario al nostro lavoro, per divorziare se vogliamo, ogni lavoro va pagato. Solo allora il divorzio, libertà sarà per due, non saremo più costrette ad amare in schiavitù. Solo allora il divorzio, libertà sarà per due, la catena spezzeremo della nostra schiavitù. E questo dunque il divorzio, canti di donne in lotta, un gruppo musicale di Padova, non oso appena dire, il gruppo musicale del Comitato per il Salario al Lavoro Domestico, una cosa che da allora forse abbiamo capito che secondo me che non è assolutamente la scelta giusta di essere pagata per rimanere a casa. E dunque dicevamo, la famiglia ha un carattere sacro, questo si sente molto nella canzone, ha un carattere sacro, intoccabile, venerabile, il è profondamente radicato nelle menti, anche nelle menti più progressiste. Anche quando guardiamo intorno, dentro i nostri movimenti misti, ritroviamo come quasi naturale, anche anzi come una via quasi inesorabile, la struttura coppia etero, casa e figli. Da un'altra parte, i movimenti LGBT, dentro i movimenti LGBT c'è poco spazio per chi non considera questa struttura come un modello importante da raggiungere o da seguire. La famiglia è considerata come una delle cellule di base della società, si parla poco spesso del fatto che comunque si tratta di una struttura patriarcale, almeno nella sua storia, fondata sulla parentalità, sulla parenta, dei maschi, sul potere paternale, e questo è sempre stato nella storia. Ha sempre implicato che la famiglia è intorno a un'unione eterosessuale, in un matrimonio di tipo monogame, con un carattere permanente. E la monogamia e l'unione permanente sono stati istituiti infatti per fare che comunque gli uomini si possono appropriare i corpi delle donne e delle loro figli, sia nel privato, quando c'è dunque questa unione eterosessuale o un matrimonio, e poi nell'appropriazione collettivo dentro la famiglia, quando comunque lo sappiamo benissimo che torna spesso il compito di prendere, torna alle donne il compito dentro le famiglie prendere cura di tutti i membri della famiglia. E dunque in questo contesto che parliamo della famiglia, la riguardiamo in termini politici come un sistema che comporta delle regole, dei protocolli, degli obblighi, e che ha degli obiettivi precisi, e come per esempio quello di tenere sotto controllo le donne di tutta la società. pêche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs au queue des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix, moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets d'Opalie vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins je te dispense. Qu'en éternel fiancé à l'homme de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. E lei e Anna Lafonjouan l'avete forse riconosciuta questa canzone di Georges Brassens, La non domanda in matrimonio. Il non matrimonio è stato anche tradotto e cantato in italiano, in cui comunque lui dice: io non ho bisogno di qualcuno, qualcuna per avere qualcuno a casa per occuparsi di me, e dunque ho l'onore di non chiederti in matrimonio. Continuiamo questa cosa sulla famiglia. Dunque, le parole che sentiamo intorno alla famiglia sono sangue e lì vediamo, vedremo che si tratta proprio di una cosa quasi naturale, anche una cosa che fa un po' il legame tra le diverse trasmissioni e il fatto che sono tantissime le costrizioni alle donne che sono basate su una naturalità del fatto sociale. È una cosa che non denunciamo e che ripetiamo sempre qua nei nostri microfoni: la natura non esiste, e ha veramente un bondo per appoggiare tutte le diverse oppressioni subite dalle donne. Matrimonio, parentalità, genitorialità, tetto, casa, maternità, divorzio, violenza, festa delle famiglie, fidelità, lavoro domestico, sono tante queste cose là. Allora, si è detto e si dice spesso che la famiglia è in crisi, e purtroppo quando si parla di crisi in generale si parla per forza una messa in discussione o delle analisi, ma no, per la famiglia non si può discutere, e questa famiglia è ben è radicata in tutta questa struttura, anche se negli ultimi 30 anni è stata messa in discussione particolarmente dalle donne stesse, che hanno avuto delle idee come andare a lavorare fuori delle case o ancora chiedere il divorzio quando la coppia non va più. E si vede spesso che il divorzio comunque è stato un'arma, è stata ancora la cosa che può fare scappare le donne di situazioni di violenza, ma e per quanto riguarda la maternità, il diritto all'aborto, anche più o meno scelta di avere una maternità o no. Ma questa famiglia così fragile è comunque da difendere, e non si fermano mai i discorsi come nel maggio 2007 il Familia Day, che difende la famiglia tradizionale contro il pericolo delle altre famiglie, del divorzio, o anche, come l'abbiamo sentito tantissimo intorno al matrimonio gay in Francia, la famiglia deve essere protetta da valori importanti, perché sennò la società è in pericolo. Infatti, chi sarebbe in pericolo? Forse se più c'è liberazione delle donne, è molto facile di capire per chi il pericolo c'è. Mi sono persa. E infatti quando si parla delle famiglie, per esempio, in cui c'è, cioè, forse ancora un po' troppo presto per pensare che la richiesta delle lesbiche o delle gay di fare e di costruire altri tipi di famiglia, anche come possiamo vedere altri tipi di maternità o altri tipi di coppie eterosessuali o altri, forse un po' presto, forse la storia non mi darà torto. C'ho un po' di difficoltà a pensare che integrando un sistema ingiusto e storicamente devuto e costruito contro le donne, contro le lesbiche e contro la libertà anche individuale, c'è un po' di difficoltà a pensare che perché si tratta di altre forme di genere la struttura stessa crollerà. Ricordiamo che il primo ministro conservatore dell'Inghilterra aveva approvato il fatto del matrimonio gay, dicendo sì, perché comunque il matrimonio è un valore sicuro e molto tradizionale, dunque io approvo questa cosa, che sembra una logica molto molto molto logica, diciamo. E avevo sentito anche il primo maggio su una radio nazionale francese un piccolo spazio di 5 minuti in cui c'era un trio di gay che raccontava la loro storia, spiegando che qualche siano le prove di mettere un quadro istituzionale intorno alle relazioni, quando comunque la gente vuole vivere altrimenti il quadro istituzionale comunque non funziona e non dovrebbe mai essere quello che regola l'istituzione, non dovrebbe mai essere quello che regola le relazioni. Si trattava di un trio di gay in cui uno era con un altro e condividevano come si dice, la crescita di un bambino loro, di un figlio loro, e c'era l'amante di un terzo che viveva con uno dei due padri. E come funziona l'istituzione in questa? Allora, sicuramente non è nella coppia e non è nel matrimonio che si potrà comunque contestare questa famiglia. Mandiamo un'altra canzone, mando diciamo, c'ho la scelta, questa che è una cantante di country che canta contro le violenze che esistono nella famiglia. Si chiama Martina McBridge, Independence Day Live. I have to say that I've been a lot of places in the last 4 weeks, 3 or 4 weeks, and we're all going through a really difficult time right now. I have to tell you that every place I've gone, I have just been so overwhelmed by how people are standing together, pulling together, comforting each other. I think I know for the first time what it feels like to be an American, and I have to say it feels real good. I want to thank you all for allowing us to come here and pretend for 75 minutes that we are living in a simpler time. Thank you for that. Let freedom ring. That sounded so good, I want to do it again, but I want you all to sing it with me. Let freedom ring. Let the white dove sing. Let the whole world know that today is a day. Let the weak be strong. Let the right be wrong. Roll the stone away. day. Well, she seemed all right by dawn's early light, though she looked a little worried and weak. She tried to pretend he wasn't drinking again, but daddy left the proof on her cheek. And I was only 8 years old that summer, and I always seemed to be in the way. So I took myself down to the fair in town on the Independence Day. Eh sì, cut, perché il computer non ha più di batteria. Aspettiamo la nostra compagna che ci porta il filo. E continuiamo sul nostro argomento della famiglia, perché la riduzione al privato e all'ordine naturale dell'istituzione familiare fa in modo che c'è poco spazio per un'analisi critica e politica. E a parte il problema della violenza coniugale, in cui comunque, cioè, come femminista è molto cioè, sviluppato, è chiaro che nel 2007 150.000 donne hanno anche gridato nelle strade di Roma che l'assassino ha i chiavi di casa e che è dentro i muri domestici che la violenza si esercita in particolare. E questa violenza, come nella costruzione dell'eterosessualità obbligatoria, come in tutto questo sistema, c'è l'amore che gioca un ruolo centrale, e anche nel mantenimento del mito della famiglia. L'amore gioca un ruolo chiave nel sistema, in questo sistema dove le donne imparano ad amare il loro oppressore, ad amare la situazione di oppressa, dove si impedisce quasi dall'inizio alle donne di raggiungere il fatto che cioè di superare il fatto che non è la nostra naturalità che ci pinge sia a amare gli uomini, a amare i figli, a avere il desiderio di maternità, o a E questa la tutta la serie di oppressioni che sono legati a queste situazioni in cui la famiglia ha un ruolo grande nell'insegnamento alle bambine del loro futuro, e in cui si impedisce proprio di arrivare fino alla coscienza della sua propria oppressione, del gioco che si è fatto. Infatti dalla nascita le femmine sono condizionate quando imparano che l'eterosessualità è un modo di crescere, che l'amore e il dono di sé sono dei valori più importanti da coltivare. È una visione idealizzata dell'eterosessualità, degli uomini, della gravidanza, del parto, della maternità che è mostrata. Il sistema orienta le femmine a diventare donne via una propaganda e un'ideologia naturalista, via una violenza più o meno sottile e una repressione che trasmetta anche l'illusione che diventiamo donne, moglie, madre per scelta. Le famiglie in particolare, le madri e le ragazze in particolare, devono amare per giustificare i legami che uniscono tutti i membri della famiglia. L'amore costretto, l'amore per forza, l'amore apparente per salvare l'unità familiare. E dunque siamo condizionate ad amare, a nutrire questo sentimento che comunque alla fine lo troviamo, che lo scegliamo noi. Se guardiamo solo un piccolo punto che si vede proprio molto in questo momento, detto di crisi economica, come le condizioni economici obbligano le donne a rimanere nelle famiglie o giocano comunque tanto sulla vita delle donne, sia obbligando loro a rimanere le famiglie perché il lavoro diventa di più raro, sia quando i giovani rimangono di più a casa e dunque rimangono più a carico delle donne. Abbiamo anche visto che con il welfare e le politiche che chiudono gli ospedali, chiudono i servizi sociali a anche le persone anziane, tutta una struttura sociale ricade sulla struttura familiare, cioè sulle donne. E dunque come parlare di amore quando si tratta solo di sopravvivenza dentro un sistema sociale l'olio che fa azionare bene tutto questi legami, queste strade con poco possibilità di uscirne. Solo le femministe e le lesbiche mettono un po' di sabbia dentro queste ruote. E dunque sì, la crisi economica è molto comoda per spingere tutte, e l'amore è ben comodo anche lui per farci aderire, diciamo, a questa propaganda sia della coppia, tutto il modello eterosistema della coppia, la maternità, il legame familiare come uno dei legami più forti, più importanti delle nostre vite. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mimes et les louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce arrêtez de vous badigeonner. De cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant. Délicat militaire, épargnez nos voglaires. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. E come sono, non sono solo Brigitte Fontaine a cantato contro l'amore, rimango ancora, rimango questa volta una canzone dunque di Donne in lotta, amore, una canzone del 76, movimento femminista romano. Così che spiego la mia gelosia e se poi soffro di saperti bene è perché a un altro tu stai insieme. Vorrei fare un mondo su misura tua per farti centrare e tenere la chiave. Questo me l'hanno chiamato amore. Questo me l'hanno insegnato, amore, ma che amore è? Voglio amare te, dobbiamo stare soli, gli altri ruberanno la felicità. No, sai, non è vero, non leggo le tue mani, ma ti prego ancora finché non è domani. Ora più non t'amo, voglio la tua fortezza, ti prego ancora dammi una carezza. Questo te l'hanno chiamato amore, ma che amore. Questo te l'hanno insegnato. girar la luce che non ha parole, paura e solitudine non mi fanno amare, il grigio dalla pelle mi voglio bruciare, stringiamoci le mani e amiamoci. Adesso cerchiamo un mondo nuovo dove non c'è possesso, forse potremo chiamarlo amore, se amore è, forse color turchino, io voglio darti un fiore come fa il bambino, la morte delle cose non mi dà più angosce, se dove lascio il seme so che la pianta cresce, io ti carezzo il viso e proverò uguaglianza, dove non c'è il potere nasce la speranza. Questo potremo chiamarlo amore, perché amore è. Per finire, cioè, ci sono due o tre cosine che dobbiamo assolutamente notificare quando si parla della famiglia, anche se abbiamo già accennato. Famiglia e maternità, vi rimando all'altra trasmissione e a altre trasmissioni che ritroverete sul nostro sito che parlano della critica alla maternità. È chiaro che per le madri ci sono poche aperture, il bambino, la bambina ha bisogno della madre, la madre rimane a casa per tenere il bambino, basta guardare intorno a noi, come lo dicevamo sicuramente, e si vede nei dati sul lavoro domestico in cui la cura dei figli entra dunque dentro le cose, che c'è da questi diciamo 30 anni un'evoluzione in cui i padri prendono molto più parte, non delle donne e delle madri, no, prendono molto più parte adesso che 30 anni fa, ma che è una cosa che è abbastanza nuova, e dunque è vero che c'è un'evoluzione, ma non è una cosa generalizzata. E per finire il discorso sul lavoro domestico, si trova dati in cui per esempio in Italia un'ora di lavoro domestico per gli uomini e tre ore per le donne al giorno. Questa cambia, e il cambiamento sui 30 anni sulla cosa intera del lavoro domestico è piuttosto dovuto al fatto che le donne fanno di meno che gli uomini fanno di più, tranne su occuparsi dei figli. Dunque la maternità come comunque una struttura di oppressione delle donne dentro la famiglia, anche se a cose le cose cambiano un po', e poi l'altro punto è la violenza. Come dicevo prima, da molto tempo le femministe hanno accennato il fatto che la violenza si è sviluppata dentro le mura domestiche, è lì che comunque le ragazze imparano che il loro corpo sarà controllato dai maschi, è lì che imparano a questo è il loro futuro. E per caso, scusate, ma c'hai il filo per il caricobatteria? No, vabbè, allora faremo senza musica. Dunque, ah sì, per esempio c'è un piccolo ragionamento interessante nel il numero della contestazione della famiglia del numero 24 di ottobre 96, a partire di quale ho lavorato un po' questa trasmissione. C'è nell'introduzione Joan Colombe che dice: ma se una serie di omicidi si svolgevano in un luogo specifico, non credete che si inciterebbe o obbligherebbe le persone a non più frequentare questo luogo? Quel luogo sarebbe immediatamente chiuso. Ma non si è mai detto di chiudere la famiglia, anche se omicidi frequenti sono perpetrati. Al contrario, si creano meccanismi per impedire le donne e le lesbiche a denunciare le aggressioni che subiscono dentro la famiglia. E questo è un punto abbastanza la visione dentro, vedendo le cose così, infatti diventa un po' chiara la situazione. L'ultimo punto che volevo accennare è su anche lì ne abbiamo parlato, per esempio quando abbiamo intervistato questa compagna dell'autodifesa in India, Mumbai, che lei ci parlava del suo matrimonio a 11 anni, e dunque la famiglia e i codici che sono intorno alla famiglia in tutto il mondo, e la lotta delle donne per uscire dalle famiglie obbligatorie dalla piccola infanzia, ma anche quando sono dentro, e uscirne con diritti, per esempio il diritto dell'eredità o il diritto del divorzio, e di avere il diritto semplicemente a vivere da sola senza essere sposata, e comunque una delle lotte abbastanza internazionale su tutto il pianeta. In Nepal 23% delle ragazze sono sposate prima di 10 anni. Diciamo che comunque questi dati sui matrimoni precoci si ritrovano, e si trovano anche in diversi contesti di cui abbiamo parlato. E per concludere questa trasmissione, dunque, riprendere la canzone Weshbeck, che questo gruppo di donne di tutto il torno del Mediterraneo si erano messe insieme per denunciare il codice della famiglia in Algeria in 84. Come ne parlavamo ultimamente con Renata Pepicelli, il codice della famiglia nel Maghreb sono dei punti in cui le donne sono sempre e ancora attaccate a fare cambiare. يا ناس الجزائر غطاو الشمس في الغربال نحاجيكم يا بنات 20 سنة هبال في مجلس الثورة 84 داروا قانون حقر كانوا متفاهمين سرقوا حق نسا وخرجوا مهنيين واش الدافيه القاضي واش بعد الخلات عشرين سنة ذا غروب ربيت ولادي نهار حتى نرجعوا لكبار دلقني بكلمة وحوزني مطنع راح ولادي في حكم الغدا dans la famille et tu tortures les ficelles au nos des gazelles mille euros ma soeur alors on te rappelle écoutez la chanson elle ne changera pas d'air et qu'on se le dise cette loi est à défaire à ne plus jamais faire à ne plus jamais faire et qu'on se le dise cette loi est à défaire à ne plus jamais faire et c'est moi l'accident Con questo washback contro il codice della famiglia e dobbiamo chiediamo a distruggere questo codice della famiglia, ma io lo direi in generale tutte queste istituzioni che pretendono gestire le nostre relazioni, cioè dando privilegi a alcuni, e chi dice privilegi per alcuni dice niente per gli altri, seguendo una morale, perché si tratta benissimo, sappiamo bene, di una morale, di una sì, una morale. E finisco questa trasmissione, vi dico a fra due settimane un punto, cioè ci sarebbe tantissime cose da dire, cioè non abbiamo parlato del ruolo delle religioni o delle destre in questo mantenimento della famiglia, è una cosa che sappiamo bene, cioè il mio obiettivo è più forse di riguardare tra noi lesbiche, tra noi gay, tra noi compagni e compagne dei movimenti detti progressisti e che vogliono aprire un altro tipo di società, di capire come ne le abbiamo queste strutture molto profondamente dentro di noi, che anche noi cadiamo e continuiamo e perpetriamo questi valori. Casamana bitegar bitegar 有么个实力还要去来当歌星，以为回捞几个眼子就在哪里做。 我也有一个 blue bomb عفوصام طبي جبن سلطان اسمعوني جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع عجنب للهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitical. Ayebede Pour le même combat.